子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，拥抱是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全车。 歌颂生命，舞动 的十点， 二十二点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，今天首先为您带来的是罗西尼的歌剧《布鲁斯基》。 十点，二十二点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，今天首先为您带来的是罗西尼的歌剧《布鲁斯基诺先生》中的经典唱段，由凯瑟琳·巴特尔、塞米尔·拉梅等演唱，伊昂·马林指挥英国室内乐团演奏。下面就请您连。 tremarmi fai son quasi forti me Sofia, la sola idea di tanta fatalità m'opprime. Ogni momento cresce la mia impazienza. Ella già viene. morto di già mio padre, l'odio de tutor vostro è estinto, io mai. Chiedervi dunque io posso in sposa e ottenervi. No, non potete. E perché? Destinatevi a permettere a quel modo di certo, signor... signor Bruschino. O ciel, e lo vedeste? No, il mio tutor nemmeno di persone il conosce. Essere da me arrivato costui, ma quale sia, servo fino a voi solo quest'alma mia. E ciò mi basta, ronche do ad ogni patto il cor suo tal contratto. Udite, io per fortuna ignoto di persona sono al signor Gaudencio tutor vostro e ad ognun del castello. Signori, vien qualcuno, entriamo. Ogni mio passo vi farò noto, basta di chi sia qui da me. Oh, sarò. Questo Bruschino odiamo. Oh, voglio certo che quel signor Bruschino me la paghi. Ehi! Non c'è nessun. Che vuoi? Siete di casa? Sono la gente del signore Gaudenzio. Ottimo incontro! È alzato ancora! Non credo! Dirò frattanto a voi perché ne vengo. Io sono Filiberto, locandiere del vicino castello. Da tre giorni albergo un certo giovane detto signor Bruschino, il quale un padre attaccato di gotta, che Bruschino si chiama, ha fatto un debito di 400 franchi. A triste pratiche. E infine io il tengo chiuso per cauzione dentro la mia soffitta. Ecco una lettera che gli mi die perché il signor Gaudenzio ora la porti ed egli poi la faccia per venire a suo padre. Ma va certo che non esce di là se il suo debito in fria non pagherà. Ah, che pensier mi viene. Ah, imprudente cugino. Egli parente vostro? Sì, Bruschino sogno pure. Ma c'è solo il signor Gaudenzio vuole a me che importa? Che guai, che guai. Nascano pur. Ma come mai? Dame fiari immediato. Danari. E tutto è bello ed aggiustato. Io donare vi darò, vi darò, vi darò. È bruttissimo il futuro. Buona volata sarò, sforzerò, sforzerò. Oh, il presente più sicuro. Vado un patto. Dica pure, dica pure. Prima zitto. Zitto, zitto. Se il colpo arriva a me. Io stavo, io stavo, io stavo, io stavo, io stavo, ne mi tolse il resto, ma zitto, zitto, zitto, zitto, al cugino spiaserrato, per 3 anni imprigionato, pace, questo di chiamare, pace, questo di chiamare, la bandiera, la bandiera, la bandiera, il fatto già. Trasformiamoci in quel signor bruschino che ha da sposar Sofia. Una lettera? Sì, sappia Marianna il gran progetto. Orsù, spirito e cuore, entriamo il colpo e ci protegga amore. E stiam di buon umore, godiam di quel che viene, e gridi se noi core di gioia e di piacer. E stiam di buon umore, godiam di quel che viene, e gridi se noi core di gioia e di piacer. E stiamo allegramente, allegramente, allegramente, di quel che viene allegramente, allegramente, e brilli se non il cuore di gioia e di piacer, e brilli se non il cuore di gioia e di piacer, e brilli se non il cuore di gioia e di piacer. Dobbiamo di quel che viene, sì, sì, sì, sì, sì, sì, e stiamo allegramente, sì, sì, sì, sì, sì, sì, dobbiamo di quel che viene, sì, sì, sì, sì, sì, sì, e stiamo allegramente, sì, sì, sì, sì, sì, sì, e prendi se noi cuore di gioia di piacere. Nel giovane bruschino, ma contento e non sarò se pria non me la paga quel signor di Florville. La brava, siete ben raccomandato, vuoi dispormi per essere arrestato? Stupisco che bruschino non si veda, ho recato una lettera per voi. Chi mi scrive? Leggiam. Bruschino il padre. Amico mio, mi valgo d'altra mano a cagione d'un improvviso piccolo accesso di chiragra e di gota, ma vi scrivo indispensabilmente. Mio figlio Bruschino, invece di recarsi da voi, batte la campagna e perde poco lodevolmente il suo tempo. Io vi scongiuro di farlo arrestare dai vostri servitori e tenerlo custodito presso di voi. Egli non è conosciuto di persona da chi che sia, eccovi in due esemplari i suoi connotati. Vi torno a raccomandare la sollecitudine e mi segno tutto vostro. Bruschino il padre. Oh gioventù imprudente, olà, sentite! Erbacco, i servitori mi conducono un uomo che fosse lui. Onesto in cielo! Lasciatemi! Che violenza! Signore! Una cosa alla volta! Siete Bruschino il figlio? Io? Io? Non serve nascondersi! Lo sono! A vostro padre son giunti i vostri degni portamenti. E con questa sua lettera m'ordinò d'arrestarmi. E voi di grazia chi siete? Io son Gaudenzio Strappapuppole. Oh Dio, quello! Ah, che degno non sono del vostro bel perdono. Giuoco, amiche! Ah, bendizione venia, ragion per cui trovato fui qui. E ragione. E al padre mio scriveva implorando perdone. Leggi. E forse la lettera che il giovane Bruschino a lui mandò per via del locandiere. Si vede che pentito. Entrate. E posso sperare? Ah, che non oso. Mi commuove. Via, via. Chissà. Oh, basta per adesso! Tanta bontà mi trae fuori di me stesso. Buon giovane, venia da per se stesso, che ha fatto poi? suo padre è un uomo fiero piuttosto puntiglioso, ma dovrà perdonargli. Ho il peso, ho il peso! Questo è Bruschino il padre. Poco di buono! Non ti là, sentiamo! Andate un po' a far nascere dei figli! Che caldo! E che frutti che l'avete! Devi di giuoco! Amico! Avrà a sentirmi! Vada giunto! Signor Gaudenzio mio! Signor Bruschino, perdonate, smonto ora di legno, che dolor, che caldo, sento che lo cambiere Filiberto, che conosco assai bene, sparse qui attorno gli indegni portamenti di quel signor mio figlio, e ben vedete, che caldo, voi già mi conoscete, mi va il sangue alla testa. Amico Allegri è rimediato. Sì? L'amico è in gabbia. Che? L'ho qui in casa. In casa? Ed ha operato la medicina ed è tutto cambiato. Troppo presto, non credo, è una finzione. Che caldo, è una burla. Ma vi prego di vederlo. Vederlo, ohibò, non voglio neppur sentirlo nominar. Erbacco, farò io. Chiedi là. Che feci poi? Gioventù, leggerezze, incontinenza. E noi che abbiamo fatto ai nostri tempi? Intendetemi. Non me lo ricordo. Or via, parliamo da uomini una volta e concludiamo. caro padre, le perdono dell'errore pentito io sono. Chi è costui? Chi è costui? È vostro figlio? Sono vostro figlio! Chi è costui? Bruschino! Un corno! Un corno! Arrosisco! Pover'uomo, lo fumatisco! Ehi! E bevo! E caldo! Io non vieni in vita mia! Io non so chi diavol sia! La capite? Sì o no? Io non so chi diavol sia! La capite? Sì o no? Rinegate il vostro figlio per un solido puntiglio a che in voi l'avviso nostro cui natura dà in orrore cui natura dà in orrore cui natura dà in orrore. Cosa andate naturando? Cosa andate barbottando? Cosa andate parmontando, cosa andate parmontando? Voi ragazzi, mi sembrate, voi ragazzi, mi sembrate, e impazzi, con voi non fa. Ah, fermate! Ah, padre, figlio, te grazia consolare. Se grazia consolatemi. Padre, figlio, diavolo, diavolo, diavolo, diavolo, su, finitela in buon'ora, su, finitela in buon'ora. E lasciatemi il malore, e per gli occhi di Dio, e se ne devono ancora. Peccato che sia quella della ragione, è quella della ragione. Snaturato del signor Bruschino, viemmelo a dir. Vi servirò a puntino. Sì, sentiamo. Signor. Senti gran cosa. Igual. Per un puntiglio il padre, ahimè, che orror, rinega il figlio. Questo padre chi è? Il signor Bruschino. Il padre del mio sposo. appunto, appunto. È possibile mai in questo punto torno il signor Bruschino? A tempo, a tempo. Pria che con questo padre snaturato io torni a contrastare. Vuo che tu tenti a ragion ricondurlo e al suo dovere. Ma io, signore... Si tratta d'uno sposo. E viene, animo mia, di là verrai, e l'esito del fatto mi dirai. Forte ci vuol, tentiamo d'acquistarci uno sposo. Erbacuole, che caldo. Ora, signor Gaudenzio, mio carissimo, che viene il commissario, la man ci toccheremo. Padrona mia! Ella è il signor Bruschino! Che crudeltà! Perché mi chiamo Bruschino? Oh, signor, no! Dunque! Perché, con esempio incredibile d'ostinazione, e mi scusi di crudeltà, perdoni i barbari e oh, signor Perpuntilio, riconoscer non vuol il proprio figlio. Maledette le scuse e i perdoni, signora mia, la supplico, ella chi è? La sposa destinata al suo figlio Bruschino. Si consoli, si sposerà dal mio figlio. Che signore? Sappia che è un impostore quello che qui si crede mio figliuolo. È così? No, signor mio! Signora, noi la vedremo l'ora! E non sostini più! Cielo! Che caldo! Cielo ha ragione! Olor non sta più saldo! Sua lettera che non geglie per lui ma consegnato. È vero? Va benissimo. E Dio ne tengo un'altra di suo figlio, dal padre riconosciuta. Confrontiamo il carattere e da questo confronto chiaramente vedremo se egli è suo figlio. Ottimamente. Vediamo. Sì, vediamo. Il carattere è lo stesso in entrambe. Che caldo. Finito ora il puntiglio. Chiara è la prova. Quello è il vostro figlio. Oh, la testa. E andate via. Solo a questo. O all'altro mondo. Il cervello ci ma polo, il cervello ci ma polo, sotto sopra se ne va, sotto sopra se ne va, da cina fondo, sotto sopra se ne va, sotto sopra se ne va, sotto sopra se ne va. Or signore, tocca a voi, io comando a voi crostere. Vi prego un momentino, vi prego un momentino. Sostenete, devo andare se permettete, devo andare se permettete. Ad altrove, ad altrove, ad altrove segnerate. Sì, signore. son mi casca il naso, se lo son mi casca il naso. Favorisca pagarmi 200 franchi. Un'altra? Io? Siete matto? Me li deve suo figlio. Il figlio mio? Voi siete fortunato. Presto, andate, correte. Egli è di là. Come di là? Se nella mia locanda sequestrato. Sequestrato? Or non diceste che... Cosa? Che quel tale era mio figlio. Oifò, che io... Sta nella mia locanda. Ma imposto che il tenga rinserrato. Briccone! Capisco. Egli, venite zitto. Ah, cavalone, or sì. Ordine che io scrutini la via, un

Ti chiedo a chi consiglio, ricordo in me sono ritornato, in me sono ritornato. Io me l'hai puntigliato, puntigliato, ma vi prego, vi prego, vi prego per volare. Sul figlio sei stringente, venga, sì, venga, oh Dio. Correte, correte, via Bruschino, a padre, a figlio, padre, figlio, Sofia, Sofia. Perdersi i momenti, facciamoli contenti. Io prima penso e grido, son figli di Calibro. E poi l'amore, o parsi sul posto, sposatevi sul patto, sposatevi sul patto. Tardare più non posso, non tardare più non posso, più non posso, più non posso. Passate a tempo, passate a tempo. Bagatelle, e come, e figlio. mio nemico. Padre mio! No, no! Vergognoso! Per un solido figlio rinnegato del soffio. Cospettore! Cospettore! Il padre estinto! Tornata alla ragione, poverino, la compassione. Li avete già sposati? Disgraziati! Padre amato, perdono! Caudendo l'amore, l'inventi di paio! Se potete caduto l'amore, se potete essere il cuore, 调频98.6兆赫，欢迎收听。感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 刚才我们听到的是罗西尼的歌剧《布鲁斯基诺先生》中的经典唱段。接下来为您带来的是马斯内的歌剧《纳瓦拉人》中的经典唱段，由玛丽莲·霍恩、多明戈等演唱，亨利·路易斯指挥伦敦交响乐团演奏。 Thank you. soit loin, c'est toi que voilà sans blessure. Oh, que je suis heureux. Mais toi, la navarraise, seras-tu donc toujours rodant autour de lui? Mais si je l'aime, il m'aime. Le fils de Remico, le fermier respecté, ne peut pas épouser une fille de rien. Thank you. bien plutôt ma fille. Ma mère, plus un mot, je dis, obéissons. Êtes-vous de la compagnie qui protégea notre retraite? Oui, général, aux officiers, tous morts dans la déroute, fais sa face au danger. Or, qui donc attendez? C'est moi, sous la mitraille. Le dernier à moi m'a dit, fais ton devoir. J'étais le plus ancien. Bien. Prends la lieutenance, quartiers availlants. Que je suis fier de toi. Tu m'es loin de Duros Jesus, Scaso barricade, oh Rizzo, remplacé la commandant Andrés, oh lieutenant Ferre, respectez les brancardes, prenez-vous prêt, messieurs, vive notre pays! Et Christian, ou misérable, je le saurai, je vais. À la cuve. Et laissez-moi. Thank you. Oh!